Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. L'avvento delle nuove tecnologie sta trasformando i comportamenti degli adolescenti. Oggi si parla di cyberbullismo. Il 23,6% degli adolescenti intervistati da Telefono Azzurro ed Eurispes dichiara di aver trovato online pettegolezzi o falsità sul proprio conto. Mi è capitato di trovare delle informazioni sul profilo di una mia amica su Facebook. Molto fastidioso. A un adolescente su 5 è capitato di trovare in internet proprie foto imbarazzanti. Un altro fenomeno in crescita tra i ragazzi, soprattutto di 16-18 anni, è il sexting, cioè l'invio di testi, immagini e video a sfondo sessuale. Il 12,3% degli adolescenti dichiara di aver inviato SMS o MMS a sfondo sessuale e il 25,9% di averli ricevuti. Se un ragazzo su due non ci vede niente di male... Questo è uno spot del Telefono Azzurro, preso dal sito del Telefono Azzurro, e parla di cyberbullismo legato naturalmente ai minori. È un problema, l'abbiamo più volte toccato, non vogliamo sottacerlo. Esistono delle novità di tipo legislativo di cui parliamo questa mattina. Faccio solo una brevissima premessa. A me piace via via seguire a tempo reale quello che è l'incontro, il cortocircuito fra mondo concreto e idea di cultura digitale, che è qualcosa di molto complesso, di molto più raffinato rispetto alla possibilità di alcuni esseri umani di avere un tablet, uno smartphone e scrivere in rete. Il fenomeno del bullismo in rete, del machismo in rete, la sopraffazione in rete non è un fenomeno specifico che nasce perché c'è la rete, è l'affiorare di una condizione umana che è latente in tutta la società. La rete diventa la cartina al tornasole. Le sopraffazioni dei prepotenti nei confronti dei deboli sono sempre state, ci sono state in periodo scolastico, ci sono nella vita adulta. Una giornalista di Los Angeles ha fatto una serie di pezzi proprio in questi giorni che dice, d'accordo con anche molti altri suoi colleghi, me compreso, che in realtà la rete è di taglio fortemente maschile, machista, e questo non permette una sorta di nuova dialettica, sarebbe lo sviluppo del pensiero femminile, delle categorie che sono meno rappresentate generalmente nella società, perché comunque, nonostante i passi avanti, sempre tenute in un luogo di subordinazione. Per quanto riguarda invece i minori, è chiaro che l'alfabetizzazione digitale, la enorme diffusione di periferiche, di protesi individuali anche nei ragazzi di età molto giovane, ha trasportato sotto l'occhio di tutti quello che è un fenomeno di sopraffazione, di piccola e vigliacca sopraffazione quotidiana che avveniva ai nostri tempi a scuola, quando ci tiravano con gli elastici dietro le orecchie, quando ci additavano perché eravamo vestiti da ragazzini fighetti di buona famiglia rispetto agli altri che vestivano diversamente, quando comunque in tutti gli ambienti ad alta promiscuità si creano delle logiche dinamiche di gruppo. Ma sul cyberbullismo è una cosa molto precisa, molto vigliacca, molto pericolosa, perché molti ragazzi alla fine si uccidono. Perché? Perché è talmente forte, invasivo l'operazione che fa il cyberbullo nei confronti della sua vittima, anzi i cyberbulli, che abbraccia tutta l'esistenza, tutto il tempo e lo spazio orario di una persona. Non è soltanto nel momento scolastico, le 4 ore di scuola che i bulli ti tartassano, poi torna a casa e sei libero. No, non sei libero mai, perché l'interfaccia della tua personalità che vive nei social network, tu volente o nolente che sia, continua a subire sopraffazioni. Riguardo al cyberbullismo esiste una novità, l'ho detto in questi giorni è stato approvato il primo codice contro il cyberbullismo, cioè alcuni operatori del settore internet, i colossi di internet, hanno firmato una bozza di autoregolamentazione che introdurrà dei meccanismi per segnalare e fermare almeno in rete il fenomeno del cyberbullismo. La riunione tecnica è stata presieduta dal vice ministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà, con l'accordo di tutti i rappresentanti istituzionali interessati come la GCOM, il Garante per l'infanzia, tutte le associazioni di settore italiane come, non so, anche Confindustria Digitale, Asso Provider, grandi colossi come Google e Microsoft che gestiscono la maggior parte del web 2.0 dove avvengono questi fenomeni. Questo testo prevede che gli operatori di rete e in particolare quelli che agiscono all'interno dei servizi sociali, si impegnino a fermare qualsiasi episodio di cyberbullismo segnalato dagli utenti. Questo è l'intento. Quanto potrà avere effetto sul fatto pratico? È questo il tipo di approccio che tutti si aspettavano? O comunque non esiste altra forma per approcciare il problema? Voi come la pensate? 80024 0024. Quelle che vedete, 9 secondi di immagini di pessima qualità caricate su YouTube, sarebbero le prove del presunto pestaggio subito da un ragazzino poco più che 15enne ad opera di suoi 5 coetanei. Una studentessa di 16 anni viene attirata con l'inganno nel cortile della scuola. Lì l'aspettano 3 coetanee. Partono calci e pugni al viso, alle gambe, allo stomaco. Le 3 si accaniscono contro la ragazza per qualche minuto. Marchiato a fuoco in classe da 2 compagni, accaduto a Torino in una succursale dell'istituto Steiner. Già a teatro in passato di un episodio di bullismo quando alcuni studenti picchiarono un compagno disabile mettendo il video. Sono soltanto degli episodi, molte volte poi i media fanno delle catene, li allacciano, li riconducono, molte volte viene attribuita alla rete un potere suscitatore di elementi di violenza latente, molte altre volte la rete non fa altro che riverberare, amplificare, è il grande amplificatore di ogni sensazione, di ogni emotività. Professor Maurizio Menzi, buongiorno. Buongiorno. Il professor Menzi è professore ordinario di diritto pubblico dell'economia alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze a Roma, presidente del Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni. Lei ha seguito i lavori, diciamo, di questo codice che sembra che finalmente sia diventato un punto di interesse per una serie incrociata di istituzioni e di operatori? Sì, è un elemento molto importante questo codice, perché fissa alcune regole, alcune previsioni molto puntuali e cerca di codificare in termini giuridici una serie di reazioni che poi fino ad ora erano state confinate alla discussione pubblica. Quindi sostanzialmente ha l'obiettivo, uno, di richiamare gli operatori direttamente ad una responsabilità, quindi segnalando, attivando meccanismi che consentono ai soggetti interessati di rivolgersi agli operatori e per mettere in condizioni quindi gli operatori di rimuovere i contenuti lesivi e quindi reagire nei confronti di questi contenuti. Quindi viene data una facilitazione di strumenti di immediata operatività, dei pulsanti, dei bottoni, dei luoghi di segnalazione, in modo che la vittima possa subito reagire e intanto togliere il contenuto, far togliere il contenuto. Senza dubbio, un primo passo importante. Ecco. Il secondo aspetto è legato appunto a quello che lei ha evidenziato poco fa, quindi la grande diffusione del bullismo sostanzialmente per 2 ragioni, quindi la sensazione di anonimato che dà al cyberbullo e la amplificazione data appunto dalla rete, quindi la diffusione di questi messaggi appunto attraverso internet. E dicevo, ecco, il merito importante, ecco, del vice ministro Catricalà di questo testo, di porre le basi per la sottoscrizione, per la individuazione di regole concrete giuridicamente vincolanti, naturalmente per coloro che poi lo hanno sottoscritto, ma soprattutto ecco avviare una consultazione pubblica. Perché già che ci sia Google e Microsoft c'è una fetta importante, diciamo, di tutti i luoghi in cui questo può avvenire. Bisogna vedere adesso se entreranno in gioco anche altri operatori, però mi sembra sia già molto. Solo una battuta. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno a tutti, Luca. Professore di filosofia del diritto, Università Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. La mia prima impressione, Andrea, poi tu mi confermi o mi smentisci, che sembra con grande applauso e grande condivisione per le ottime intenzioni, però che si mettono a punto degli strumenti che teoricamente potrebbero essere efficaci, poi all'atto pratico in realtà non cambia molto, dato l'enorme difficoltà poi di individuare, di segnalare, di togliere. Tu capisci, un contenuto quando comincia a circolare in un social network, vallo a fermare, quando è già diffuso, è come un virus istantaneo. C'è questo problema o ancora, diciamo, è voler per forza fare le pulce a delle ottime intenzioni? No, le intenzioni sono sicuramente ottime, per carità, e effettivamente il fenomeno è in crescita. Non ho trovato dati recenti riferiti alla situazione europea, ma la situazione statunitense è in qualche modo preoccupante. Appunto la persistenza del fenomeno, la pervasività e l'accessibilità di quello che viene detto sono sicuramente problemi. Il problema più che l'anonimato, secondo me, è la completa mancanza di feedback emotivo che ha il molestatore nei confronti di quello che fa. Quindi non è tanto l'anonimato quanto non se ne rende conto proprio. I meccanismi di empatia, esatto, che negli esseri umani scattano scattano quando vedono le altre persone soffrire. Cosa hai visto negli Stati Uniti? Me ne sono occupato proprio ieri sulla stampa. Il fenomeno riguarda soltanto i minori, per esempio anche le donne, anche gli omosessuali, anche altre categorie in parte deboli. Il problema è che manca una fetta di dialettica, di pensiero in rete per questa sorta di prevalenza di macismo vessatorio, diciamo, in cui anche il cyberbullo entra senz'altro. No, indubbiamente questo è un problema, però è un problema culturale, non è un problema tanto di strumenti o di tecniche, tant'è che se ho fatto una brevissima ricerca e ho trovato immediatamente adesso un magnifico centro norme che riguarda YouTube, nel quale il fenomeno del cyberbullismo è perfettamente descritto, ci sono video che si possono vedere e c'è tutta la procedura già attuata, ma da tempo peraltro, per segnalare questi fenomeni a Google, quindi a YouTube e a Google, e quindi poi probabilmente questi contenuti poi verranno rimossi, insomma. Quindi ecco, questo codice, che tra l'altro è un codice di autoregolamentazione, no? Quindi impegnerà semplicemente solo coloro che lo sottoscriveranno, impegnerà queste persone nella misura in cui saranno disposti a spendere i denari per mettere in atto quello che viene previsto. Ecco, ci sarà un costo reale, perché bisogna operare sul sistema, operare nell'infrastruttura tecnologica, non è una cosa, uno scherzo. Reale dipende anche dal fatto che l'articolo 3 prevede esplicitamente il fatto che le segnalazioni dovranno le rimozioni dovranno essere attuate da personale opportunamente qualificato. Questo vorrà dire che Google, Microsoft, Facebook e tutti quelli che ci vengono in mente dovranno avere delle persone stipendiate per rimuovere questi contenuti, tanto più appunto che si garantisce, o meglio si prospetta la necessità di rimuovere questi contenuti entro 2 ore della segnalazione. Anche capisci una cosa, conoscendo la dissolutezza ludica della rete, io potrei prendermi la briga di dire: Rossetti mi sta molestando semplicemente perché mi dici buongiorno, tanto così, per vedere che succede. Crei un disordine enorme se facessi così. Allora, c'è questo problema sicuramente. Non bisogna dimenticare che il fenomeno del cyberbullismo è limitato a coetanei, no? Quindi c'è questa cosa da non dimenticare, insomma. Ecco, se io molesto un ragazzino è un altro problema, non è cyberbullismo, insomma, forse addirittura più grave. No, ma dicevo, gli stessi ragazzini potrebbero... Le segnalazioni spurie possono essere moltissime. Quello. E questo non può diventare un nuovo gioco, creare problemi agli operatori di Google e dirgli che magari il migliore della classe, dico per assurdo, ma come sempre succede, il più diligente dei ragazzi in realtà sia un molestatore, tanto per far casino, e questo amplificherebbe il problema. Però aggiungo un'altra fetta, visto, per avere una panoramica più completa. Nicola Iannaccone, buongiorno. Buongiorno a voi. Nicola Iannaccone è uno psicoterapeuta, ha curato il volume Stop al cyberbullismo, per un uso corretto e responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione, edizioni La Meridiana. Contiene anche 10 cortometraggi sul cyberbullismo realizzati appunto con il gruppo Buongiorno. Mi viene una cosa da domandarle però, Iannaccone. La vittima del bullo ha gli strumenti psicologici sempre per poter operare una denuncia pubblica del bullo? La metto in maniere più facili. Accade che nelle classi, accade dalla notte dei tempi, quando esiste la scuola, che la vittima non lo dice nemmeno ai genitori, non lo dice nemmeno ai maestri, subisce e sta zitta. In questo caso acquisirebbe una sorta di volontà di reazione, di ribellione, da segnalare il proprio persecutore in rete? No, secondo me no, difatti. Il problema è quello, un messaggio in rete efficace sia tanti mi piace o se è stato visto da tante persone. Allora anche in questo caso bisogna agire sugli spettatori, e quindi il fatto di togliere subito il messaggio non è di per sé un fatto buono. È utile ma non è buono, perché poter ritornare sul messaggio vessatorio, anche in termini educativi e soprattutto, visto che parliamo di cyberbullismo, quindi di attività che riguardano la scuola, il mondo dei bambini e dei ragazzi, dei giovani, dei giovanissimi, il fatto di poter ritornare sull'episodio per poter fare una riflessione educativa sul perché quel messaggio è macismo e soprattutto perché è vessatorio, diventa un elemento importante per fare un'educazione. Quello che diceva Rossetti, lavorare sulla cultura più che sullo strumento tecnico. Se no poi noi abbiamo quello che è successo in maniera drammatica, tutti i messaggi impropri di fronte alla difficoltà che ha avuto l'onorevole Bersani, dove ci sono stati dei messaggi che hanno scandalizzato rispetto al piacere. Sì, ma diciamo l'umanità è fatta di mentecatti, di persone senza controllo, è chiaro. Qui hanno uno strumento a disposizione, emergono e vengono in rete. Leggo solo due messaggi. Mia figlia frequenta la prima media, è stata vittima del fratello di una sua compagna in classe terza, prima di denunciare il prete, ha fatto, tentato di parlare con la madre, però i suoi figli erano intoccabili, come parte dei genitori dei bulli. Speriamo che entrino velocemente, c'è un altro ascoltatore, queste regole. Il mio ex mi ha messo su un sito porno, da lì gli annunci sono finiti su altri siti e non ho modo per essere bloccati. Questa è una persona non più ragazza, ma evidentemente, come dico, il bullo crescendo continua a svolgere la sua attività, è una sorta di tentativo e illimitata presunzione di impunità. Ci fermiamo un istante, a tra un minuto. Melog, cronache meridiane. Oggi è una giornata nera. Non posso entrare nel gruppo delle Lady Angels. Dicono che non ho superato la prova segreta. Hanno fatto vedere la mia foto truccata a tutti i maschi della classe. Mi vergogno troppo. Vorrei sparire e non tornare più in quella scuola. Ma non so come dirlo a mia mamma. Aiuto. Se qualcuno ti picchia, il dolore prima o poi va via. Essere vittima del cyberbullismo, invece, ti fa provare un senso di esclusione infinita. E questo resta nel cuore. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Marco da Vicenza e volevo portare così una mia piccola testimonianza, nel senso che io sono stato parzialmente toccato dal cyberbullismo. Io mi occupo di informatica e a un certo punto ho vietato a mia figlia di usare i social network. Uh-huh. Però la realtà qual è? Che la rete è neutra, cioè la rete mostra la società com'è. Anzi, si ha una maggiore percezione di qual è la realtà. Io vivo su un piccolo paese, poi tutto sommato, dove c'è il detto e il non detto. La rete invece è libera, ma libera nel senso che ti consente di portare in superficie quello che è la società umana. E nella società umana c'è il delinquente, c'è il bastardo, c'è il figlio di puttana e c'è di tutto. Diciamo, qui li vede concentrati e palesi. Senta, perché ha impedito sua figlia di usare i social network? Qual era stato il motivo scatenante? No, io le ho detto semplicemente una cosa. Sinteticamente. Lei sa che comunque se vuole c'entra quando vuole, basta andare nel telefonino dell'amica. Sì, certo, per carità. Però il problema è che non si rendono conto, e forse è colpa nostra di adulti, io ho 50 anni, è colpa nostra che probabilmente non gli abbiamo insegnato a non mettere i panni sporchi, come si suol dire, in piazza. Uh-huh. Mentre invece sui social network è un attimo, cioè uno dice ma che cazzo me ne frega, mi scusi il termine, sì. Cioè che mi frega, che mi interessa di mettere la foto della festa nella quale sono ripresa, che sono ubriaca, magari è una figata, ma questo scatena l'ira di Dio. Sì, sì, diciamo che è una china in cui facilmente scivola anche l'adulto, man mano che diventa, lo so perché sono un compulsivo, mai anch'io metto in rete qualsiasi istante la mia giornata, lo trovo divertente, lo trovo, mi piace, però diciamo per me è anche diverso, facendo un lavoro per cui il portare il privato nel pubblico fa parte anche di suscitare interessi, di richiamare attenzione, di creare cortocircuiti, in parte da questo è motivato. Poi devo dire che l'abitudine è come andare in giro col cappello. Fino a due generazioni fa un uomo non usciva se non aveva il cappello in testa, sentiva nudo, indecoroso, o la cravatta e la giacca, sembrava impossibile mio nonno uscire la mattina, smette la giacca e la cravatta anche per venire a tavola, capito? Per noi oggi è totalmente indifferente. La deriva contemporanea è che il nostro privato comincia a appartenere più agli altri. Poi volevo fare un altro giro con gli ospiti riguardo a questo problema. Professor Maurizio Menzi, ricordo, ordinario di diritto pubblico alla Scuola Superiore dell'Economia di Finanza Roma, che ha seguito, diciamo, i lavori del codice del cyberbullismo. Si è tenuto anche conto del dopo aver prescritto, deciso, obbligato a mettere il famoso pulsante di avvertimento, che il lavoro non finirà lì, sicuramente non finirà lì? Senza dubbio, ecco, la cosa che è importante che emerge soprattutto è la necessità di una seria, puntuale ed efficace azione educativa, senza la quale non si va da nessuna parte. Non è la tecnica del pulsante che risolve il problema. Se non si agisce sulla consapevolezza del disvalore sociale del bullismo, che viene ritenuto sulla rete non assume sulla rete la connotazione sociale negativa che in realtà assume nella vita, come sappiamo, di tutti i giorni. Si lo sa perché, secondo me, perché in maniera subliminale anche nella società è tollerato il discorso tipico dell'ascoltatore che telefonava. Uno va dai genitori del bullo, cascano dalle nuvole, anzi si arrabbiano, perché tutto sommato sono contenti che il figlio sia un vincente piuttosto che uno sfigato perdente. Cioè, almeno avrà gli strumenti e gli artigli per muoversi nella vita. Se questo costerà l'equilibrio di altre persone, chi se ne importa? L'importante è che sopravviva il figlio. Ecco perché il vero problema non è tanto il figlio, ma il genitore. Il genitore a sua volta deve essere supportato dall'insegnante. Ecco, e qui torniamo appunto alla risposta alla sua domanda iniziale. L'intervento di spiegato, quindi questo codice, è fondamentale, ma deve essere corroborato da un'azione educativa sostanziale che vede coinvolti i genitori e le scuole, quindi gli insegnanti. Ilaria, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno, grazie di questo bel programma che fa tutti i giorni, è utilissimo, grazie. Andiamo al punto. Sì, allora il punto è che io proprio ieri sono stata a parlare col preside di una scuola di Roma centrale dove vanno le mie due figlie. Scuola media. Una scuola media, sì, perché quella è la fascia di età in realtà dove più comincia a rischio. Certo. E anche se diciamo col tempo si sta abbassando anche alle elementari, perché allora, su WhatsApp ci stanno anche sulle elementari, certo. Quindi ecco. E no, niente, a parlare di questo argomento dei telefoni a scuola, lui mi diceva come non sia in realtà utile sanzionarli, perché devono essere anche le famiglie che vigilano, come diceva giustamente anche il professore che mi ha preceduto. Ma lei perché era mossa da un particolare episodio legato alla sua figlia o alle sue figlie? No, io devo dirle, non ho niente di scandaloso da dire, piccole cose succedono continuamente, mia figlia non ci sta sui social network e ha un telefono molto normale, poco costoso, ma siamo contornati da ragazzini che hanno telefoni che valgono centinaia e centinaia di euro. Beh, quello se i genitori glieli possono comprare, sì, però decidano loro, sì. Sì, però è una cosa pazzesca questa qua. E comunque in classe si è, nelle classi che io conosco, anche in classe si è risolto molto bene perché non era niente di che. Però certo è che è una cosa che sta diventando pervasiva e quello che, ecco, io invece il punto è questo che volevo dire. I ragazzi non si benvenuto questo codice finalmente, perché in realtà i ragazzi non si rendono conto del fatto che tutte queste cose vengono amplificate in questo modo mostruoso, quindi il bullismo che c'era anche quando noi eravamo ragazzi, io sono del 66, in realtà in questo modo viene amplificato e diventa una cosa paurosa, enorme, ingestibile. Questa è la voce di Lara, devo purtroppo stringere perché il tempo è quello che è. Nicola Iannaccone, psicoterapeuta che si è occupato di cyberbullismo. Una battuta su questo sfogo di madre, ma che è significativo di un clima generale. Gli strumenti fanno paura, ci sono i genitori delle famiglie più abbienti che hanno sofisticatissimi smartphone e li usano come fossero clave, quando potrebbero essere degli strumenti di evoluzione fantastici per loro. Ma sono sempre le famiglie che alla fine danno in mano un oggetto di cui non sanno nemmeno il potenziale anche positivo. Ma il problema è, da questo punto di vista, è una risorsa quello che sta succedendo, perché ci obbliga a ragionare su un problema che non possiamo bypassare. Anche quando eravamo noi giovani, il bullismo creava della sofferenza e creava anche dei suicidi, solo che non lo registravamo. Oggi sappiamo che questo è l'impatto e allora su questo dobbiamo intervenire precocemente, e quindi se alle medie compare il fenomeno dobbiamo intervenire alle elementari, alla scuola dell'infanzia, per educare a delle relazioni che si basano sul rispetto e non sull'aggressività e sulla violenza e sulla prepotenza. Per cui da questo punto di vista non è nascondendo l'oggetto, il cellulare né demonizzandolo, sì, infatti. E non demonizzandolo, ma facendo una buona educazione. E anzi, in questa fase cogliamo questa opportunità di un ragionamento che sta impegnando tutta la società per migliorare le relazioni. Allora chiuderei con Andrea Rossetti, professore di filosofia e diritto informato all'Università Milano Bicocca. Come vedi, ancora una volta troviamo di fronte alla difficoltà di mettere, di sancire il punto di collisione fra mondo concreto, mondo arcaico, mondo analogico e cultura digitale. Questo è un punto. Sì, questo è esattamente il punto. In generale mi sembra che soprattutto in Italia, ma non solo, ci sia questa voglia di introdurre proibizioni come risposta a problemi che in realtà sono culturali ed educativi. Questo credo che sia fondamentalmente un errore. Ovviamente questo codice è una buona cosa perché dà un segnale preciso dell'attenzione che le istituzioni rivolgono al problema, ma quello che deve passare... Cioè almeno Andrea, almeno... Le istituzioni cominciano a pensare che esiste un mondo che è il mondo digitale in cui le persone esistono, esatto, non è più un'astrazione. Indubbiamente, però appunto non si può pensare che anche la soluzione del problema si trovi unicamente all'interno di questi sistemi. Come diceva qualcuno prima, il rapporto fondamentale educativo tra scuola e famiglia è fondamentale in questo caso, perché qui si parla di molte cose, ma ad esempio non si parla della punizione che viene data ai cyberbulli. I cyberbulli sono da punire, per carità, nei modi dovuti al fatto che sono minorenni, sono bambini. Non sì, sono non esistono le cinghiate, ma però, esiste la rieducazione in progetti sociali. Però sì. Il problema deve essere fatto capire anche a cyberbullo, e questa parte in questo codice non esiste, ovviamente non è compito, per carità, di Google di educare i nostri figli, o di Facebook quello di educare i nostri figli, sia ben chiaro, però credo che lo Stato dovrebbe avere come primaria funzione, come primario scopo quello di attuare politiche che vanno in questa direzione all'interno della scuola pubblica ovviamente. Ecco, ti termino con un aneddoto che avevo citato già in una trasmissione, mi sembra in provincia di Genova, se non Genova stessa, tempo fa, un gruppo di ragazzi che riprendevano i telefonini, che gli aveva dato fra l'altro il Ministero, una scuola campione, per fare un progetto digitale legato al loro programma, riprendevano i loro compagni che maltrattavano un ragazzo disabile, naturalmente sono intervenuti, li hanno puniti, li hanno condannati a svolgere dei servizi sociali, beh i genitori sono coalizzati, hanno detto al prete no ma è troppo dura la pena per i nostri figli, in fondo non facciano nulla, riprendevano soltanto quelli che maltrattavano il disabile. Questo è il segno comunque di una società che ancora deve molto evolvere. Grazie ai miei ospiti, a domani.